torna dal villaggio, sola sola ma sta in volto. Io la seguo ma non ho coraggio di pregarla darmi ascolto. Dolce la sera, ben lunga la via, a farla insieme ben lunga saria. Son finito i suoi capelli biondi e la boccuccia d'ora, gli occhi suoi balli sono neri e fondi e non mi guarda ancora. Ho parlato al nostro buon curato e m'ha detto: figlio al mio, se l'amore in te non è peccato, sarà pago il tuo desio. Arde il mio cuore, ma pure la fiamma, amo lei sola, la casa e la mamma. Son figli d'oro i suoi capelli biondi e la boccuccia d'ora, gli occhi suoi balli sono neri e fondi e non mi guarda ancora. E ho visto uscir dalla chiesetta con un'aria di mistero, io la porto l'acqua benedetta, ma sorriso e non par vero. Che buon curato, m'ha detto passando, ed io le ho chiesto: ma quando, ma quando? Son figli d'oro i suoi capelli biondi e la boccuccia d'ora, gli occhi suoi belli sono più profondi or che mi guarda ancora. E insieme andando per la via sogniamo una festina d'oro. Me ne tre la stringo, lei sussurra t'amo, ed io rispondo: io moro.